Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Europa 24. In apertura il piano d'azione di Bruxelles contro l'elusione fiscale delle multinazionali. It is unacceptable that certain multinationals make large profits. È inaccettabile, dice il commissario UE agli affari economici Moscovici, che alcune multinazionali in Europa facciano grossi profitti non pagando la propria parte di tasse. Giganti che spostano profitti e sedi in paesi dove le aliquote sono più basse per ridurre al minimo il loro contributo fiscale. Una mancanza di equità, secondo Moscovici, che impedisce di valutare l'attività economica nel suo giusto valore. Lede il principio del mercato unico e crea uno squilibrio tra piccole imprese nazionali e grandi imprese transnazionali. È da questa mancanza di equità, spiega il commissario, che nasce la necessità di questo piano d'azione. Le riforme che noi proponiamo sono ambiziose. Il piano presentato oggi ha dunque l'obiettivo di creare attraverso un'unica base imponibile un sistema fiscale più equo, ma con un approccio realistico, dice Moscovici. L'intenzione è quella di far sì che ricavi e profitti siano tassati principalmente nei paesi nei quali le multinazionali li realizzano e non più dove a loro conviene di più. Con questo piano di fatto si riprende il progetto presentato già 4 anni fa, che prevedeva la nascita di una base imponibile unica, definizioni omogenee per tutti i 28, di profitti, perdite, ammortamenti, deduzioni e detrazioni. Un primo passo, il prossimo più concreto, sarà quello di proporre nel giro di pochi mesi una direttiva in tal senso. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. La crisi greca, poche ore dall'Eurogruppo decisivo per il destino di Atene, arriva un avvertimento della Banca Centrale Greca. L'accordo fra la Grecia e i suoi creditori è della massima importanza e in caso di fallimento del negoziato ci sarà una crisi incontrollabile con l'uscita del paese dall'euro e molto probabilmente dall'Unione Europea. Il fallimento della trattativa con i creditori, avverte la Banca Centrale Greca, segnerebbe l'inizio di un percorso doloroso che porterebbe inizialmente al default sul debito e alla fine all'uscita dalla zona euro e molto probabilmente dall'Unione Europea. E durante l'Eurogruppo di domani non ci sarà l'elezione del nuovo presidente dell'Eurogruppo, elezione che slitta a luglio. Lo fa sapere l'attuale presidente Dijsselbloem su Twitter, spiegando come domani occorra dedicare tutta l'attenzione alla Grecia e un'elezione delicata come questa richiede altrettanta attenzione. L'inflazione nell'Eurozona a maggio è salita allo 0,3% dallo 0 di aprile. Lo comunica Eurostat, che conferma così la stima flash. Il Consiglio d'Europa ha apprezzato le pratiche messe in atto dall'Italia per ridurre il sovraffollamento nelle carceri. Il nostro paese era stato condannato a maggio del 2013 per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea che proibisce la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. La sentenza lasciava all'Italia un anno di tempo per risolvere il problema. Susanna Marietti, coordinatrice di Antigone, intervistata da Valeria Grandi. L'Italia ha messo in campo una serie di riforme che sono andate ad agire su cose diverse, per esempio sulla custodia cautelare, ha limitato le possibilità di utilizzo della custodia cautelare da parte dei magistrati, ha aumentato lo sconto di pena per buona condotta, ha tolto alcune delle preclusioni nell'accesso alle misure alternative, per esempio per i recidivi, ha fatto una serie di interventi di questo tipo che, per quanto con tutto sommato un certo tasso di disorganicità, hanno contribuito notevolmente, direi, a far calare il numero delle persone detenute. Ancora sono superiori al numero dei posti letto, quindi viviamo ancora una situazione di sovraffollamento, ma non grave come quella che si riscontrava 2 anni fa. Gli amministratori delegati delle 5 grandi compagnie aeree europee, Air France KLM, Lufthansa, IAG, EasyJet e Ryanair, sono stati ricevuti oggi a Bruxelles. L'Europa ha bisogno di una strategia comune per l'aviazione e di un piano esaustivo per il settore, questa è la loro tesi. Una precondizione per la competitività e affinché l'aviazione possa sostenere fino in fondo l'economia e l'occupazione europea dopo la rivoluzione arrivata con la liberalizzazione. Era l'ultima notizia di Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24.